79, all'insegna della partecipazione e dell'accessibilità. Binario 69, via dei Carracci 69 7D, a Bologna. Ingresso riservato ai tesserati AICS. Info sui nostri social. Questo messaggio è rivolto ai rivenditori di serramenti. Hai inviato un preventivo al cliente con pratica edilizia aperta prima del 30 dicembre 2023, ma non puoi applicare lo sconto in fattura? Contatta la Simio SRL e insieme troveremo la giusta soluzione. Con Simio SRL hai uno sconto immediato in fattura del 75% per la ristrutturazione della tua casa. Se hai una pratica edilizia depositata prima del 30 dicembre 2023, hai ancora la possibilità di usufruire dello sconto in fattura per la sostituzione di infissi, porte interne, porta blindata, impianto elettrico e rifacimento del bagno. Simio SRL, via dei Macabraccia 8 a Casalecchio, 051 1998 2832 o simiosrl.it. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Caricamento di Panta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti. Velocità smodata! Via! E ben ritrovati qui su Radio Città Fujiko 103.1 in FM oppure su www.radiocittafujiko.it. Se ci state ascoltando dall'internet, colui il quale vi sta parlando e vi sta trapanando le orecchie è Andrea, il quale ancora una volta si è fregato bellamente le chiavi della Panta 80 Time Machine, lasciando a piedi il buon Alessandro, che nel frattempo mi faceva ciao ciao con la manina mentre io sfrecciavo per le vie delle radiostazioni fino ad arrivare qui a Radio Città Fujiko. E quest'oggi, insomma, un po' di supplenza, ma c'è del rigore, signore e signori, c'è della progettualità, perché oggi è la vigilia, non è Natale, però è la vigilia di Sanremo. Sì, che per molti, moltissimi, è fondamentalmente l'anticristo, è quella settimana in cui fondamentalmente si cerca di sviare, di dribblare i vari post, le varie dirette, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Io ve lo dico, oggi ci salviamo tutti quanti, nel senso che la puntata sì è in una qualche maniera dedicata a Sanremo e tutto il resto, però comunque sarebbe il nostro Sanremo, quello che io e il buon Panta vorremmo, che io e il buon Panta abbiamo immaginato, ovviamente a tema anni 80, ma insomma con qualche piccola chicca. A tal proposito vi lancio la palla anche a voi radioascoltatori, coloro i quali ci state seguendo, al 333 1809 494. Diteci via SMS, WhatsApp, Telegram, quello che volete, insomma diteci un po' quella che vorreste fosse la scaletta del vostro Sanremo perfetto. Che ne so, tra i partecipanti Iron Maiden, Enzo Salvi e Marisa Laurito, che ne so, una cosa del genere. È concesso tutto, perché tutto qui è concesso. È stato ridondante, sì, ma d'altronde Signori miei, Sanremo è ridondante. Partiamo subito, immediatamente, con quella che ovviamente sarebbe l'ospite d'onore, il patron delle serate, per me Panta, nonché il vincitore di Sanremo a prescindere, perché secondo me quest'uomo, no, secondo me, è fondamentalmente il padre tutelare reputativo di Panta 80, Bruce Springsteen. Iniziamo, signore e signori, questa puntata ufficialmente dedicata al nostro Festival di Sanremo. Buonasera a tutti e benvenuti, amici telespettatori, amici del Teatro Ariston. Benvenuti alla prima serata. Basta, questo festival è truccato! Per piacere, questo festival è truccato e lo vince Bruce Springsteen. E dai, e ci siamo un'altra volta, dai. Machines sprung from cages on Highway 9. come buon inizio, come ogni buon inizio di ogni buon Sanremo, è insomma un po' la citazione di Cavallo Pazzo, secondo me era doverosa. Comunque questo era ovviamente Bruce Springsteen con Born to Run. Tra l'altro purtroppo il buon Bruce insomma ha dovuto dire addio alla sua genitrice, è venuta a mancare sua madre pochi giorni fa proprio, e però diciamo, se mettiamo dall'altro piatto della bilancia, diciamo, per quanto riguarda qualcosa di un pochettino più positivo, era stato nominato ai Grammy Awards, o meglio candidato, scusatemi, ai Grammy Awards 2024 per il miglior album pop tradizionale con Only the Strong Survive, che tra l'altro è un album più che decoroso, a me è piaciuto particolarmente, cioè non mi sono strappato i capelli, però insomma era un album godibile. Tra l'altro, se non vado errato, il buon Bruce dovrebbe tornare un pochettino in pista in questo 2024. E aneddoto riguardante Bruce Springsteen e Sanremo: il boss è stato ospite al festival nel 1996, che era praticamente una delle pochissime apparizioni televisive del boss proprio nel mondo in quel periodo, perché era un pochettino refrattario e aveva anche, tra l'altro, se riuscite a recuperare qualche registrazione dell'epoca, portava un live ultra intimo, fisarmonica armonica bocca, scusatemi, chitarra e basta, così si aggirava per i vari teatri, massimo 2000 persone. Ora invece, se non arriva a 40, 50, 60, 70, 80 mila persone, c'è qualcosa che non quadra. Andiamo avanti comunque con il nostro Sanremo alternativo dell'universo parallelo in una qualche maniera. E effettivamente col buon Panta stavamo dicendo, lui mi ha detto: Andre, dimmi, è da un po' di tempo che non ci ricaghiamo più, e non so nemmeno per quale motivo, non ci hanno fatto assolutamente nulla di male. Di chi stai parlando? Stiamo parlando proprio dei Cure, ragazzi, perché in effetti è da un po' di tempo che sono assenti, e quindi ora gli apriamo le porte del nostro Sanremo alternativo qui a Radio Città Fujiko e vi spariamo un pezzone che però non è il solito Like a Heaven o quello, insomma, nulla di tutto questo. Andiamo un pochettino più a ritroso nell'83, se non vado errato, e questi sono i Cure con The Love Cats. Così, mi piaceva essere un po' alternativo. Anything for you. Pensavate che prendessi buco? E invece no, questi erano The Cure con The Love Cats, che, strano ma vero, è stato il primo album della band a entrare nella top 10, nella top 10 britannica. Così, nozioni a caso che vi potete rivendere ai vostri amici quando parlate del più e del meno, così, tranquilli, è tutto gratuito, assolutamente gratuito. Tra l'altro sempre questo pezzo ha una delle linee di basso più apprezzate proprio tra gli addetti ai lavori, perché in effetti non è ultra complessa, però sono, come dico sempre, quelle note, quelle pizzicate così di corde essenziali, ma che ti cambiano letteralmente il volto della canzone. Però io vi chiedo, faccio un appello ora, lo chiedo a voi che ci state ascoltando qui su Radio Città Fujiko. Ragazzi e ragazze, a parte salutiamo Mauri Dopamina, sempre immancabile lui, saluti ragazzacci ottantenni. Ho qualche anno in meno, però in effetti sì, tra una quarantina d'anni più o meno sì, sarò lì sulle soglie degli 80. Ti voglio bene, Mauri. Comunque, vi rivolgo anche a te, che forse hai la risposta, ma voi l'avete visto da qualche parte il nuovo album dei Cure? Perché sono anni che dicono che ci stanno lavorando, sono un paio di anni che dicono che è pronto. Nei live comunque due o tre pezzi nuovi l'hanno fatti, inediti completamente, ma sto album non ne vuole sapere di uscire. Se voi avete qualche cugino dell'America che conosce il tizio che ha conosciuto quel tipo al bar, che è amico del fratello, del cugino, del pronipote del producer attuale di The Cure, ci faccia sapere qualche cosa. Ma noi nel frattempo andiamo sempre avanti con il Sanremo alternativo di Pant80, è altro gruppo che in effetti dicevamo li mettiamo poco, e allora oggi perché non rispolverarli? D'altronde a Sanremo, signori miei, hanno rispolverato i Ricchi e Poveri, cioè io voglio dire, gli voglio bene, un gran bene, un grandissimo bene ai Ricchi e Poveri, per carità, ma io penso sempre ai Jalis, cioè mi scegliete i Ricchi e Poveri e mi scartate per la 30ª volta consecutiva i Jalis, cioè non penso che siano così orribili nella scrittura per preferirgli i Ricchi e Poveri, ma comunque elucubrazioni così mariane a parte, io direi di andare spediti, veloci, rapidi come dei segugi con i Simple Minds. Qual è la canzone? Non ve lo dico. Feed Your Love to Me. Simple Minds è, signori e signori, senza nemmeno farlo apposta, domani, che è 6 febbraio, quest'album, cioè l'album da cui è tratto questo brano, e quindi per la precisione Sparkle in the Rain, il mio inglese è sempre mamma mia, comunque compie 40 anni precisi, signori e signori, ed è un album della Madonna. Io ripeterò sempre, lo ripeterò all'infinito, sono rockettaro, sono molto tendente al metallaro, ma i Simple Minds con quell'album, anche per chi non è fan del genere, secondo me è d'obbligo dargli almeno 2, 3, 4, 5, 6, 7, anche 10 ascolti, perché fa sempre bene. A proposito di Simple Minds, comunque, io vi dico che quest'anno, quest'estate, saranno in Italia per un po' di date, signori e signori, perché saranno il 28 giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest, va bene. Poi il 30 giugno alla Rotonda Via Paolo Pinto di Bari per il Locus Festival, che è un festival bellissimo, signori miei. Se non ci siete mai andati, se capitate per le parti di Bari in quel periodo, andateci, perché è una figata assurda. E poi il 1 luglio Piazza Garibaldi a Senigallia, e infine 4 luglio Piazza Sordello a Mantova. È ancora oggi, secondo me, anche per curiosità, così, se avete voglia di ascoltare della buona musica anni 80, però loro sono ancora attivi discograficamente, fanno ancora cose parecchio gradevoli, un occhio buttatecelo, insomma. Noi continuiamo imperterriti qui su Panta 80 con la Panta 80 Time Machine. Acceleriamo, 21:26 qua, signori miei, io dico questo: ci ascoltiamo i Clash, poi pubblicità e poi ritorniamo proprio a tuono, proprio bam bam bam bam bam. Guardate un momento, scusate, c'è un signore, che è successo? Scriteriato, che sta chi lì è? Affacciato alla balaustra. E chi è? E non so con quali obiettivi. Ti prego di non dare escandescenze, torna indietro per piacere, fammi la cortesia. Fagli la cortesia. Qual è la ragione di questa tua contestazione? Qual è il motivo? Vogliamo Panta e Andrea sul palco dell'Ariston di Sanremo. Farebbero tutto in una serata e con musica certamente migliore. E che diamine! Abbiamo i fan anche nell'intelligenza artificiale. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll

comunque, se ci volete, se vi volete sfogare anche voi, o se ci volete dire un po' quello che potrebbe essere il vostro Sanremo alternativo, che ne so, ci mettete gli Iron Maiden, i Megadeth, Bruno Pizzul che declama Dante, sarebbe bellissimo, tra l'altro. Ce lo potete comunicare tramite SMS, WhatsApp o Telegram al 333 1809 494, e io basta, mi fermo un attimo con le bagianate e continuiamo con la playlist di Panto 80. E questa volta, anzi no, sapete che faccio? Faccio un cambio al volissimo, eccolo qua, perché vi butto giù i Frankie's Goes to Hollywood, ma non la solita The Power of Love, che è un tritamento di pazienza, diciamo così, di pazienza per non dire di balle, però con Two Tribes, che è un gran bel pezzo, signori miei, da riscoprire, da riscoprire. Frankie Goes to Hollywood fanno anche in questo caso lo scherzetto, ti partono con quel motivo molto, in un certo senso quasi epico, diciamo sinfonico così, però che pensi, ecco, arriva la trittatura di Maroni, e invece poi bam, così sulla noce del capocollo direttamente ti schiaffano un bel brano abbastanza danzereccio, dai, è figo. Two Tribes è una di quelle perle che ogni volta A me personalmente fanno rivalutare questa band. 21:39, signori e signori, qui su Radio Città Fujiko. Io sto prendendo sempre più coscienza del fatto che domani inizia Sanremo. Sì, l'ho detto 200.000 volte, ma finirà non prima delle 2. E ci hanno anche fatto dell'ironia quando hanno fatto le pubblicità di Sanremo con Amadeus, che io voglio dire, raga, alle 2, fino alle 2, arrivare svegli davanti alla televisione, uno già è dura se sei appassionato del Signore degli Anelli e ti vuoi fare la maratona, e quindi cioè sei proprio predisposto a seguire. Ma il festival, cioè non prima delle 2, non massimo le 2, non prima delle 2. Cioè, io questi giorni, non so voi, ma io li passerò con caffeina e tirate di testa contro il muro per rimanere sveglio. E lo devo fare per forza, perché devo scriverci, quindi, riguardo Sanremo. Ma noi, imperterriti, qui sulle radiofrequenze di Radio Città Fujiko, sulla Panta 80 Time Machine, che non gliene frega niente di Sanremo e di questo e quell'altro, continuiamo fino alla fine, 21:41, e andiamo spediti direttamente con Bryan Adams. E io nel frattempo sono più o meno nella condizione in cui era Fiorello quando Bugo, all'epoca, oramai 4 anni fa, era sparito così de botto, quasi senza senso. Allora. Non ho capito niente di quello che è successo. Tutto qua. Nemmeno io. Young and wild and free. Now E nel frattempo che voi state limonando durissimo sulle note di Bryan Adams, perché lo so, non vi vedo ma lo so perfettamente, io stavo cercando un po' di informazioni per domani, per Sanremo di domani, ma non per altro, cioè non mi interessano gossip, questo e quest'altro, anche se ho visto... oggi ci sono state le prove generali e qualcuno ha dato un bel 10 alla prova dei ricchi e poveri. Vabbè, ma a proposito dei ricchi e poveri, io ho pensato, se sti poveri cristi li mettono non nella prima parte della serata ma anche a metà, perché metà significa mezzanotte, signori miei, i ricchi e poveri hanno una certa. Ora, detta anche in maniera diplomatica e con tutto l'amore del mondo, per carità di Dio, però voi immaginatevi i ricchi e poveri che devono stare fino alle 2, che siano sul palco, che siano dietro il palco, così in attimo, fino alle 2, 2 e mezza in piedi, svegli, tutte le sere. Vabbè, niente, così, ora sarà la mia crociata affinché ricchi e poveri li mandino a dormire alle 11, 11 e mezzo, to mezzanotte così, ma deve essere proprio una prova da giovani. Comunque, 21:46, il delirio si è impossessato oramai ufficialmente di me stesso medesimo, ma la Pant 80 Time Machine continua e prosegue con, sapete che abbiamo incontrato nel frattempo che eravamo qui in viaggio con la Pant 80 Time Machine, i Depeche Mode, e sapete con che cosa stavano canticchiando, sapete che cosa? People are people, la gente è gente, signori miei, sì. una delle poche cose che non è che odio, però mi fa sempre specie, soprattutto della discografia in generale degli anni Ottanta, è che tutti i pezzi, o quantomeno il 95% dei pezzi incisi negli anni Ottanta, finiscono con lo sfumato, con il fade out, direbbero quelli bravi. Ed è una cosa che mi devasta ogni volta, perché inizialmente pensavo fosse una scusa della serie, non sappiamo come far finire il brano, vabbè, lo sfumiamo e arrivederci e grazie. Poi invece era proprio di uso comune a prescindere. Ma a parte queste lucubrazioni delle 21.51, stavo parlando fuori onda con i ragazzi di Ballet di Fendi, che nel frattempo stanno prendendo piede qui in radio, stavamo parlottando un poco, e sì, questa puntata di Panto 80 per me personalmente funge da training autogeno in vista per l'appunto dei giorni dei seguenti giorni sanremesi, che saranno una devastazione allucinante. Ma sapete che vi dico? Sono le 21.52 in questo preciso istante. Io già vi ringrazio assolutamente anche da parte del buon Panta per essere stati con noi, per averci sopportato, e speriamo comunque di avervi fatto passare un'oretta di spensieratezza e anche, perché no, di buona musica, perché comunque la selezione musicale è sempre roba seria. Possiamo essere grezzi e feroci quanto ci pare, però c'è sempre la volontà di darvi qualcosa di buono da ascoltare nella nostra oretta con la Panto 80 Time Machine. Io vado a selezionare l'ultimo brano, che lo vado a prendere qui, è proprio considerato il fatto che io dentro di me sto con un countdown che arriverà allo scoccare delle 20 di domani sera. Vi rispolvero gli Europe. Sì. La finiamo in maniera più classica non si può, ma The Final Countdown, almeno per me, cioè faccio un attimo un'azione assolutamente personale, ma con The Final Countdown io nel frattempo vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento lunedì prossimo sempre dalle 21 alle 22 qui su Radio Città Fujiko con Panto 80, e saremo entrambi presenti, io e il buon Alessandro, sempre ad allietarvi un pochettino, e io intanto continuo a gasarmi un pochettino, perché sti tastieroni sono sempre comunque una figata. Ciao ragazzi e buon proseguimento di serata. manca, non è qui. Circondato dall'isteria, vecchia, stupida malattia. Non c'è niente che lui non sia. Il mio amore di idiosincrasia. Il mio amore di idiosincrasia. Il mio amore di idiosincrasia. Strano effetto di alchimia. Il mio amore di idiosincrasia. Il mio amore, il mio amore, il mio amore di idiosincrasia. Il mio amore, il mio amore, il mio amore di idiosincrasia. Non è più, non è più, non è più qui per me. Non è più, non è più, non è più qui per me. Non è più, non è più, non è più qui per me. Non è più, non è più, non è più qui per me. Forse non tutti sanno che al pub Birreria La Locanda c'è un nuovo impianto per la spillatura. Forse non tutti sanno che tra le vie di birra alla spina ce n'è una senza glutine. Forse non tutti sanno che il pub Birreria La Locanda è via Treves 19 a Bologna, zona stadio. Forse non tutti sanno che si sta bene, ma se tu non